La Perla Production presenta la sua vita racchiusa in una scatola di fotografie. Un trauma rimosso, riportato alla luce da un sogno. Francesco Russo, regia di Giacomo De Angelis. Visione.